La fra gonfio torrente che di tema funesta ebbie le rime non si arresta se contra argine che sospoglia anzi più a terra con rovinoso piede oltrepassa i tiranno di campi i capi d'onda Eva contro di lui scampo o soccorso. Se non si tronca e le soffoglie i corso. Thank you. Che brava! Comprendo. ecco mi ero d'accenno. Scemi, e a me rispondi. Ti accusa più d'un labbro, qual seduttor del volto. E voi che dico, inoltre le leggi di natura, tu brami la mia morte. Or della colpa qui le trame palesa, o ti discolpa. Io seduttor, onde tal forza sire, io cerco la tua morte, onde tal brama. Ovi complici sono, ogni accusatori. Il mio delitto, io un'adultera moglie, una moglie usurpata. Il dirlo, ecco la colpa, e reo presente. Ma io non son, son più fedel vasallo. Allor che più condanno il vostro fallo. o da la vita. Non lusinga, non lusinga la ferita, o fa pochi ferita, al favor di madietosa. Quando singa la ferita, al favor di madietosa. Al favor di madietosa. Testimon qui mi vanto, invanzi accusa di caduto l'inciampo, risplende sulle pupille il dì, chi si far cieco negli adulteri amplessi, nel letto incestuoso e nel sotto piacer d'oscuri affetti, perpetua notte d'ombre eterne aspetti, al carcere si renda, io ti precedo alla gran mensa, il ti voglio, o bella, vivi, ma per momenti ogni orma arrendo. La libertà della mia morte attendo. Thank you. si ve giorno, ma non giunga le sera, chi si progiunge a noi l'orrenda e cielo, i quai felice, eterna e ridi viva, viva e rode felice. Thank you. ciò che meglio t'aggrada. Chiedi a lui del Battista il capo in dono. Otterò ciò. Che bravo! È la fede regal, è la mia vita, è la gloria di Cesare e di Roma. Per i ciel, per i dei così m'impegno, ma non cor tu pretenda ch'io di vivere con te lo scettro e il regno. La fede accetto e chiedo il capo del Battista. Ai, quale sì. Thank you. sento il vostro sdegno, il vostro sdegno. Thank you. Battista, il suo la mia morte rode, a lui si ceda e si ubbidisca a Dio. E Dio, che dal mortal terreno esilio alla patria del thank you. te